Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. Quinta puntata. Asciuga il grasso, le spalle, il torace e le gambe si scarnificano al meglio dopo un ciclo di 2 iniezioni a settimana per un mese. Alla lunga in età adulta, a dosaggi pesanti, ci sono mutazioni ossee. Le mandibole si ingrossano, la fisionomia del viso muta in un virile prognatismo. Allo specchio ho riconosciuto la vivacità degli occhi che avevo visto in Gaudenti, quella domenica senza negri. Sto bene. Impressione ormonale come a 13 anni e con la determinazione di un ventenne. In America certi personaggi dello spettacolo che ne fanno uso ne parlano come un elisir di giovinezza. Non hanno tutti i torti. Il mondo sta impazzendo. Non abbiamo punti di riferimento, siamo bestie che si aggirano tra i rifiuti lasciati dalle precedenti generazioni, privi di morale, eccitati da pezzi di plastica colorati, giocattoli difettosi, vestiti strappati. La nostra civiltà avrebbe dovuto implodere alcuni secoli fa. Non arrivare a questo. Non ha senso cercare un ordine, delle regole con la pratica sportiva. Un'altra follia, non meno demente che affidarsi alla religione o alla politica. Cerco semplicemente di non invecchiare, è banale, ma è uno sforzo che mi distrae da pensieri che mi porterebbero in deriva. Mantenere inalterate nel tempo le performance atletiche o addirittura migliorarle. Un'utopia greve che genera forme di dipendenza. Senza dipendenze non si ha ragione di esistere. Ho bisogno di punti fermi, di gabbie insonorizzate, di binari. Ho bisogno di disciplina. Ho bisogno delle endorfine del post-gara, delle paure della vigilia, di programmi di allenamento, di regimi dietetici. Giulio questa settimana è alle terme. È partito improvvisamente. Devo andare io a Chiasso a prendere la roba. Giulio ha usato questo schifosissimo termine. Lo ha fatto apposta. La Svizzera è vicina, un paese evoluto, zero scrupoli di etica medievale. Al pusher sarà bastato recarsi in una farmacia per l'acquisto di prodotti con un foglietto scarabocchiato da un dottore e i contanti. Il giovane ricercatore non si occupa di questa fase. Ho dovuto muovermi in prima persona. Penso che Giulio avrebbe potuto evitarmi questo viaggio della speranza, acquistando un paio di scatole in più in previsione della sua assenza. È un test. Per gli atleti i test non finiscono mai. Vuole mettermi alla prova. Sa quanto odio i tossici. Mi ha detto di andare dal tipo a procurarmi la roba. Ha usato questa orribile espressione dopo avermi dato i dettagli geografici e temporali dell'appuntamento. Gli ultimi allenamenti sono stati meno brillanti. Il fisico si è in parte assuefatto alle sostanze e alle posologie. È spiacevole. Vado peggio anche rispetto al periodo precedente alla cura, ma mi assicurano che è normale. Tutto è sotto controllo e si sta procedendo secondo logiche standard che a livello di sperimentazione si sono rivelate efficaci. Abbiamo iniziato la fase discendente del sistema piramidale, prevedendo il top della condizione per fine giugno. Abbiamo abbandonato l'idea della maratona per traguardi più ambiziosi. Un 10.000 in pista sul filo dei 28 minuti netti. Saranno 1.000 i negri che valgono questo tempo, atleti dai 16 ai 50 anni, ma per un bianco è oro. Una 20ina in tutto il mondo. Per fortuna al bar della posta non si presenta il classico pusher di stupefacenti. È lui a venirmi incontro. Evidentemente la descrizione che aveva di me era precisa e nessun altro nel locale ha caratteristiche fisiche simili alle mie. Gli altri individui di sesso maschile sono di statura bassa e hanno il ventre da alcolisti. Dice che mi ha visto in qualche gara, forse un campionato di società di mezza maratona. Mi fa qualche complimento generico, sono impacciato. Più cerca di mettermi a mio agio con riferimenti alle mie prestazioni, più mi chiudo nel silenzio. In realtà mi ha confuso con qualche altro atleta o bleffa per ruffianeria. Non ho ancora corso una mezza maratona. Questo viaggio della speranza costerà 2 allenamenti saltati. Non mi piace perdere allenamenti. È solo un fatto psicologico. Mi fa perdere sicurezza. Lui è un ex mezzofondista. non è ingrassato. Ritiene indispensabile raccontare che si tiene in forma con un'ora di corsa quotidiana e un po' di palestra. Non è il caso di lasciarsi attaccare e uccidere dai grassi, dagli zuccheri e dal colesterolo cattivo, ma nemmeno di scannarsi continuando a gareggiare nella categoria amatori. Non avverte la dipendenza dell'agonismo attivo che ha ammorbato molti suoi colleghi. Nel mondo amatoriale delle corse su strada non girano soldi. Sarebbe un'inutile sofferenza, piuttosto volgare. Le cose lui le ha sempre fatte al top. Oggi è manager di alcuni atleti di seconda schiera, ma tutti bianchi, si affretta a precisare con i baffi sporchi di cappuccino. Se mai decidessi di mettermi nelle sue mani per rimediare ingaggi, dice, il suo numero ce l'ho. Se questo deficiente resta impigliato nelle maglie della giustizia, gli inquirenti troverebbero il mio numero nella rubrica del suo telefonino. Potresti cancellare il mio numero dalla rubrica del cellulare? No, non ti preoccupare, sono della vecchia. Mette una piccola agenda in pelle sul tavolo, dono di qualche cassa di risparmio. Pensa di essere un genio. Dai tabulati verrebbe comunque fuori tutto il traffico telefonico intercorso tra lui e i clienti. Decido di non farglielo notare. Il mio tè è bollente. Sarà bevibile tra 2 giorni se non crepa prima la tazzina. 2 giorni non basteranno a togliere questa cappa scura dal mio cervello, a rendermi sopportabile questo cialtrone. Maledico Giulio in silenzio. Sì, a Robby sceglie campionati di mezza, una gara da dimenticare. Anche lui mi parla bene del nuovo presidente della federazione. Dice che c'è gente brava in giro che ha voglia di dare ossigeno a questo sport. Efficienza ed efficacia, meno poesia. Dice che l'atletica è nel medioevo. Devono cambiare regole e formule. È necessario adeguare le gare ai tempi televisivi. Abolizione della marcia nelle competizioni mondiali. Che si facciano una federazione e un calendario a parte. La gente non regge quel gesto atletico così naturale fatto di sculettamenti e gambe storte. La 50 km dura più di 4 ore. Non possiamo abusare così del pubblico televisivo armato di telecomando. È la più antiestetica delle fatiche. Abolizione dei turni eliminatori nelle gare di corsa e lanci, salvo che per i 100 metri. L'evento deve presentare meno dilatazioni possibili. Quando mi allunga il pacchetto sotto al tavolino gli dico che non sono Seregni Claudio. Gli dico che sono un agente della Guardia di Finanza e gli sbatto sotto la faccia il mio portafoglio aperto. Non lo so perché l'ho fatto. Forse perché odio questo untuoso con la giacca di tendenza sgualcita e gli occhiali a goccia. Sta per avere un infarto quando gli dico che scherzo. E ancora non ci crede. L'aritmia galoppa. Non ha ancora deciso se incazzarsi o aprire il paracadute dell'ironia. Inizio a sentirmi a mio agio solo adesso che ci salutiamo per prendere ognuno la propria strada. Poi rientro dalla porta che si apre sul frigorifero dei gelati. Il pusher sta ancora raccogliendo le sue cose sul tavolo, mi guarda preoccupato. Che mi dici dell'emotrasfusione? Roba vecchia? Strano che qualcuno mi chieda questo oggi. Mi sa che sei uno sbirro davvero. Scusami per lo scherzetto di prima, non sono né uno sbirro né un giornalista. Pare che un medico spagnolo stia di nuovo lavorando sulle trasfusioni. È una cosa recente. Campioni di tutta Europa e di tutti gli sport aerobici a fare la fila fuori dal suo studio. È pazzesco. Io non ne voglio sapere un cazzo di queste porcherie. Ah, di colpo moralista. Preferisco i farmaci, la chimica. Il problema è che per lo più all'atleta viene pompato dentro sangue di un donatore con lo stesso gruppo sanguigno. Mi fa schifo solo a pensarci. Io ho preso di tutto, ma questo è davvero troppo. Se fai un incidente e ti occorre una trasfusione urgente? Vabbè, alla prossima, se ti occorre qualche cosa fatti sentire, niente sangue e niente scherzo come quello di oggi. Stare fermo un giorno mi ha ricaricato le batterie. Intasco il pacchetto nell'impermeabile. In una frazione di secondo valuto se ficcarmi nel bagno del bar per un'iniezione d'urgenza. Razionalizzo ed esco senza pagare il tè. Se ci sarà una prossima volta, piuttosto mi recherò personalmente in una farmacia svizzera. Attaccate alle pareti ho foto incorniciate da metallo satinato. Immortalano atleti che hanno avuto carriere sfortunate e incomplete, potenzialità inespresse. Negli anni ho raccolto e catalogato materiale, fogli di classifiche, giornali, riviste federali. Ho diversi album dove attacco foto e articoli sportivi. si riferiscono ad atleti funestati da infortuni e a giovani promettenti dispersi. Le ragioni che hanno portato a questi piccoli fallimenti mi sono ignote. Mi limito a constatare il fatto che nessuno di loro è arrivato a vittorie olimpiche o mondiali, spesso nemmeno alla maglia azzurra della nazionale, nonostante avessero manifestato indubitabili sintomi di talento puro. Un ragazzo di Ferrara aveva saltato in alto 2 metri e 1 centimetro nella fase nazionale dei giochi della gioventù. Aveva 14 anni. Oggi sarà grasso o mediamente attrezzato per squallide partite di tennis fra colleghi. Forse un infortunio avrà placato i suoi sogni. Forse l'irritazione per quegli allenamenti meticolosi avrà colliso con la disordinata esuberanza dell'età inquieta. Forse l'alibi sarà stato quello dell'impegno scolastico che i genitori consideravano prioritario. L'atletica doveva essere solo una piccola distrazione, una fase di passaggio, una fissazione transitoria da gestire a livello amatoriale. Poco importa se alla resa dei conti quel figlio non ha dato nessuna soddisfazione, se non ha costruito nulla che l'abbia fatto emergere da un'anonima mediocrità, escludendo quel risultato ottenuto a 14 anni. Quell'asticella che aveva vibrato alcuni secondi per poi fermarsi sui ritti, composta. I suoi balzi gioiosi sul materasso avevano richiamato il professore di educazione fisica che lo aveva accompagnato a Roma. Si erano abbracciati, la gara era vinta, il secondo si era arreso a 1,95. Non aveva tentato misure superiori, la concentrazione era saltata in aria a contatto con quella gioia. Peccato. Probabilmente quel pomeriggio di autunno aveva nei tendini almeno un 2,05. Dopo quel risultato si era reso necessario il passaggio al tesseramento per una società prestigiosa e attrezzata. Il suo nuovo tecnico era certo che con una preparazione mirata nel giro di un paio d'anni avrebbe raggiunto il muro dell'eccellenza, allora identificabile con i 2,20. Il suo stile era rozzo, il passaggio sull'asticello un gesto acrobatico spettacolare poco coordinato. Ogni salto era diverso dall'altro, acerbo e intuitivo. In quell'inverno in palestra c'erano solo da mettere a punto gli automatismi della rincorsa e dello stacco. Il resto sarebbe venuto da quella reattività tendinea che nessun allenamento poteva donare e di cui la natura l'aveva dotato. La tecnica doveva solo incanalare quella forza, ridurre al minimo le dispersioni. Quel talento raro era stato misteriosamente trasmesso dai genitori che oggi tendevano a sedare i sogni del figlio. Erano piccoli proprietari terrieri e quell'unico figlio maschio era necessario in campagna. Il padre, lavoratore infaticabile, aveva ingravidato la moglie 4 volte senza che i fianchi della donna esondassero grasso. Il giovane saltatore a ottobre aveva iniziato a frequentare un istituto agrario fuori città. Tornava a casa nel tardo pomeriggio, in tempo solo per i compiti, per la cena e poi coricarsi. A dicembre avrebbe definitivamente abbandonato gli allenamenti, nonostante le insistenze dei dirigenti della società che avevano parlato con il padre. Il vecchio contadino aveva fatto sedere in salotto il tecnico e il presidente del centro sportivo universitario. Nessuna ostilità, ma un pragmatismo padano che poteva sembrare ritardo mentale aveva gelato ogni speranza. Questa specialità non richiede sostegni farmacologici. Nessuna integrazione chimica fa di un somaro da tiro un cavallo di razza. È tutta genetica e tecnica, ricerca della perfezione del gesto, della pulizia nell'esecuzione. Il fisico non deve mutare, deformarsi, potenziarsi. Nel salto in alto è sconsigliato l'uso di steroidi anabolizzanti, sarebbe inutile e dannoso. I saltatori in alto sono angeli fragilissimi. Il loro gesto richiede una potenza inaudita, ma si affida al tendine di una caviglia che si torce in un movimento innaturale. Sono atleti esili, filiformi, altissimi, dotati di un'eleganza che attende solo di corrompersi nell'abbattimento dell'asticella. La loro elasticità del miracoloso. Anche gli atleti che si dedicano alla gara degli 800 metri sono a rischio. Un limbo tra la velocità e il mezzo fondo, sempre in bilico su equilibri complicati. Un'ambiguità rischiosa che espone a gravi infortuni. Atleti fermi a bordo campo, legamenti spezzati, volti deformati dal dolore. Percorrono vie crucis da uno studio specialistico all'altro, esami clinici, radiografie, sedute fisioterapiche, fino all'intervento chirurgico, ricostruzione di tessuto organico, poi il logorante inferno della riabilitazione, le prime corsette, la lenta progressione verso ciò che si era, per riprendersi quello che spetta di diritto, la ricerca dello stallo migliore, l'eternità impossibile. Il mezzo fondo veloce è un'utopia. La preparazione deve essere perfetta, l'esistenza a prova di infrangibilità. Non possono intervenire fattori esterni a deviare il corso degli eventi, a complicare le scansioni di allenamento. Una fidanzata logisticamente difficile da raggiungere, un congiunto bisognoso di cure domestiche per malattie a lungo decorso, nessun misero dettaglio a ostacolare l'ordinato flusso temporale, giorni sempre identici, il mezzo fondo veloce è perfezione e controllo, ripetibilità e riproducibilità. Ho 5 foto particolari, le più preziose, le mie favorite, una sezione a parte, mezzofondisti veloci con i tendini a orologeria. C'è un'immagine di un atleta italiano quinto alle Olimpiadi, una carriera martoriata dagli infortuni, un'icona della sofferenza. Sta piangendo, ma non c'è ira, solo disperazione attonita per l'ultimo definitivo malanno. La tengo in salotto. Il giorno in cui l'ho appesa, Sara l'ha fissata per un attimo, poi ha fissato me e non ha commentato. Come fossi un maniaco senza speranza, preda dei propri fantasmi. Sarebbe più sano avere l'immagine di un atleta vittorioso a braccia tese verso il cielo prodigo di grazia. Il mio eroe urla per una lacerazione muscolare. È Donato Sabia, un ottocentista il cui talento fu pari solo alla sua fragilità. Non conosceremo mai il potenziale di questi atleti, esseri umani eccezionali incapaci di ottenere il capolavoro definitivo, la vittoria olimpica o la prestazione cronometrica assoluta, quella teorica, in assenza di sfighe. Sono molto grato agli ottocentisti. Conservo perle fuori classifica. Goffredo Melogli, tesserato per la polisportiva Molise, nato a Isernia. Se provo a immaginare il campo scuola di Isernia alla fine degli anni 70, mi assale la tristezza. Il centro molle di una nazione cialtrona che non sa decidersi tra l'Europa e l'Africa. Il posto ideale dove il talento può sprecare se stesso, marcire. Il solito professore di educazione fisica a dettare rudimenti di tecnica a un ragazzino miracolato, a definire i dettagli della rincorsa e dello stacco. Nel maggio del 77, a 17 anni, salta in lungo 7,52 m. Ci sono voluti quasi 20 anni perché un atleta di pari età lo potesse superare. Chi lo ha migliorato è già una piccola star coccolata dai media. Nelle interviste sembra voglia imitare l'irruenza dei motociclisti ragazzini. Ha vari hobby, una vitalità incontenibile, sono in un complesso. Nato a Los Angeles e vissuto a Rieti, parla romano. La madre è un ex ostacolista americana di valore internazionale che lo allena con competenza e petulanza. Pare predestinato a un futuro radioso. Ha ottenuto risultati di inconfutabile valore nella velocità nei salti in estensione, con qualche puntata nell'alto e sugli ostacoli. Nel 2003 ha perso un anno per una sospetta microfrattura. Melogli, invece, è rimasto solo nelle liste all-time, dove vengono riportate le migliori prestazioni per categoria. Sono elenchi funesti, idiomi che paiono celare maledizioni, iscrizioni rupestri di altre ere. La madre di Melogli poteva essere una contadina lucana e il padre un ferroviere. Mi limito a fantasie, non ho svolto ricerche più approfondite. Mi piace immaginarlo come un ragazzo confuso, incerto sul futuro, uno che non vuole perdersi dentro un bar tra una volata in motorino e un superalcolico e cerca di saltare lontano, di saltare altrove. Addestramento tattico e psicologico, corsa su distanza varia a intensità di gara che si effettua modificando i parametri esecutivi nei ritmi di percorrenza, nella continua simulazione delle reali condizioni di gara al fine di indagare le difficoltà tecniche e tattiche. Gli ultimi test cronometrici indicano segnali di regressione. Giulio sta valutando la possibilità di rivedere la programmazione degli allenamenti. Si ostina a mantenere atteggiamenti cordiali, ma è di pessimo umore. La circostanza è spiacevole anche per lui, mette in discussione la sua credibilità. Non riesco a stare nei tempi previsti dalla tabella di allenamento che si fanno settimana dopo settimana sempre più veloci. È la fase di rifinitura. Cala la quantità di chilometri e ci si concentra sulla qualità. Giulio mi consiglia test ematici. Una certa flessione era prevista, ma non ora, fra un paio di settimane. Faccio i conti con roba di scarsa qualità, come un tossico con l'eroina tagliata troppo male. Giulio mi pagherà lo scherzo del bar della posta. Era il ricercatore universitario a passare a Giulio i farmaci? Quell'invertebrato con un ciuffetto di capelli sopra gli occhiali da vista e una leggera zuppia? Lo storpio era sempre molto cortese. I suoi piccoli prelievi dalle punte delle dita subito dopo gli sforzi mettevano di buon umore. La sua presenza all'interno dell'impianto sportivo creava un diversivo folcloristico, la triade, biochimico, preparatore, atleta. Poi ha smesso di farsi vedere al campo. Problemi non meglio identificati hanno creato un buco negli approvvigionamenti e Giulio non ha ritenuto utile darmi spiegazioni. Ecco il perché del pusher di merda. Si trattava di un'esigenza molto concreta. Vorrei prendere a testate Giulio che sta leggendo i tempi dei miei passaggi su una tabella. Mi trattengo e non mi lamento. Sono in gelido silenzio. È solo un piccolo fastidioso episodio da dimenticare. Il test consiste in una frazione di 9.000 metri con variazioni di intensità. Cherono è un metronomo. Si parte da un primo chilometro in 3.15, poi 3.05, 3.30, 3, 3.25, 2.55, 3.20, 2.50, fino a 2.45. L'ultimo 1.000 lo ha finito solo lui secondo i tempi previsti. Io mi sono miseramente staccato ai 600 metri finali, gambe di marmo. Quando la vecchia gloria stacca il giovane atleta in presunta ascesa, sono cazzi amari per la promessa. Cherono mi viene incontro con un sorriso bianchissimo, per niente beffardo. Mi chiede delle mie sensazioni fisiche, è sinceramente interessato. Scuoto la testa e mi porto le braccia ai fianchi. I bronchi fischiano, i polmoni si contraggono a fisarmonica. Mi limito a pronunciare numeri in sequenza. Non commento le mie condizioni, evito autocommiserazioni. Roberto non ha rimproveri. È felice del mio piccolo fallimento. I soliti ricami mentali di Roberto mi danno la nausea. La sua etica è così scontata. Ho bisogno di tutta questa gentaglia attorno a me. Giulio, Roberto, Cherono, il ricercatore dell'università, il pusher di ripiego. Cherono ha chiuso l'ultimo chilometro del test in 2.41. Roberto non me l'ha fatto pesare. Si è limitato a porgermi il foglio con i passaggi. L'ultima casella non è compilata. Il mio tempo per pietà non l'ha segnato. Cherono ha 37 anni. Secondo le regole federali potrebbe gareggiare nella categoria amatori. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.